giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dell'inchiesta che deve far luce sull'omicidio accaduto la notte scorsa in via Buonarroti a Fontana Fredda, dove un cittadino albanese di 43 anni, Vladimir Topiana, è stato ucciso a colpi di pistola da un connazionale al culmine di una lite nei pressi di un locale. L'aggressore, fuggito a bordo di un'auto di grossa cilindrata assieme a un altro uomo, è stato identificato e fermato dai carabinieri di Sacile. Sono proseguite ininterrottamente per tutta la notte le operazioni per lo spegnimento e la bonifica dell'incendio nell'area esterna della Bipan di Bicinicco, che sta impegnando i vigili del fuoco. L'ipotesi è che il rogo si sia innescato per autocombustione, esclusa la presenza di amianto e di materiale plastico pericoloso. Un progetto dell'Università di Udine prevede percorsi formativi post-scolastici a favore di persone con disabilità cognitiva che, terminate le superiori, hanno difficoltà a proseguire gli studi in ambito universitario. Un orientamento per iniziare il percorso nel mondo del lavoro in condizioni di legalità e sicurezza. È questo lo scopo dell'iniziativa itinerante Il Lavoro Viaggia con Noi, promosso dalla Fondazione Consulenti del Lavoro, partita oggi da Gorizia a bordo di un truck. Fincantieri ha firmato un importante accordo con Carnival Corporation per la progettazione e costruzione di due nuove navi da crociera destinate ad Aida Cruises, compagnia leader nel mercato crocieristico di lingua tedesca. Presentato all'Area Science Park di Trieste il nuovo laboratorio di spettroscopia laser a generazione di frequenza somma, che servirà per lo studio dei materiali che mimano la natura. Si apre oggi a Udine la scuola avanzata sulla turbolenza, con l'obiettivo di avvicinare due comunità scientifiche che finora hanno lavorato separatamente, creando nuove connessioni tra teoria, esperimenti e simulazioni. Le 12:32 minuti in questo istante, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Lara Zani, che condurranno anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 7 aprile. In apertura la cronaca con gli sviluppi dell'inchiesta che deve far luce sull'omicidio accaduto la notte scorsa in via Buonarroti a Fontana Fredda, dove un cittadino albanese di 43 anni, Vladimir Topiana, è stato raggiunto e ucciso da colpi di pistola da parte di un connazionale al culmine di una lite nei pressi di un locale. L'aggressore, che era fuggito a bordo di un'auto di grossa cilindrata assieme a un altro uomo, è stato poi identificato e fermato dai carabinieri di Sacile. Spostando le grate, pulendo in mezzo, ho trovato, adesso mi dicono che è un proiettile, io lì per lì non sapevo cosa fosse. Questa mattina il ritrovamento del secondo proiettile era incastrato tra le grate del negozio di serramenti in via Buonarroti a Fontana Fredda, di fronte al quale è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Vladimir Topiana, 43 anni, albanese, residente a Cordenons. Dal vicino bar raccontano di una lite degenerata e di due spari poco dopo le 21. Hanno bevuto con una roba e a un certo punto io stavo lavorando, ho visto che lui picchiavano uno di loro e sono andata a chiedere aiuto dentro perché era la partita della Juventus e niente, dopo ho chiamato, mi hanno detto di chiamare 112, ho chiamato e sono arrivati, però è successo tutto, li ho sentiti, sì, verso le 21 e 15 minuti. Quanti spari? Due. Colpi alla testa che sono risultati fatali. La vittima, autista, padre di famiglia, è deceduto sul colpo davanti agli occhi del cognato che abita nello stabile sopra il bar. L'auto bianca di grossa cilindrata con cui sono arrivati gli altri due connazionali è stata fermata dai carabinieri di Sacile ieri notte al confine con il Veneto, alla guida un trentenne sospettato dell'omicidio. Al vaglio degli investigatori la posizione del secondo uomo. Fontana Fredda, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, poco prima delle 11 i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti ad Aviano per l'incendio di una piccola struttura in legno adibita a legnaia e ricovero attrezzi nel giardino di un'abitazione a Marsure. Al loro arrivo la costruzione era già completamente avvolta dalle fiamme che stavano intaccando alcuni alberi vicini. L'incendio è stato spento e si è poi provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area. Nessuna persona è stata coinvolta. E sono proseguite ininterrottamente per tutta la notte le operazioni per lo spegnimento e la bonifica dell'incendio incendio nell'area esterna della Bipam di Bicinicco che è scoppiato ieri e che sta impegnando i vigili del fuoco di Udine con il supporto anche di quelli di Gorizia, Pordenone e Trieste dal mezzogiorno di ieri. La scorsa notte sono stati una trentina i vigili del fuoco al lavoro con 3 squadre ordinarie, 2 pale gommate e 2 autobotti per lo spegnimento e la bonifica dell'incendio. Ad aiutarli anche alcuni agricoltori con i loro mezzi, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia e una squadra dei civici pompieri di Campo Rosso. Le operazioni sono proseguite questa mattina e richiederanno ancora probabilmente altri giorni. L'ipotesi, secondo i vigili del fuoco, è che il rogo si sia innescato per autocombustione. In corso verifiche ambientali e misurazioni della qualità dell'aria da parte di ARPA, anche in punti sensibili quali le scuole, ma è esclusa al momento la presenza di amianto e materiale plastico pericoloso, trattandosi di polveri provenienti da incendio di legna. Il meteo, con il vento in direzione nord-nord-est, dovrebbe agevolare la dispersione dell'inquinamento. Il sindaco Paolo Paul questa mattina ha nuovamente invitato la popolazione a restare in casa il più possibile, a evitare attività all'aperto e a tenere chiuse porte, finestre e ventilazioni. Se ne parla da anni e oggi è realtà. La continuità didattica per gli studenti con disabilità lo stabilisce un decreto emanato dal ministro dell'istruzione Valditara. Le scuole sono ancora in attesa di indicazioni operative, critica la CGIL. Intanto sul fronte dei numeri risulta esponenziale la crescita delle disabilità certificate e dei disturbi dell'apprendimento e comportamentali fra gli studenti e cresce anche su questo fronte l'impegno finanziario della regione a sostegno delle scuole. Le famiglie di uno studente con disabilità potranno chiedere alla scuola la conferma dell'insegnante di sostegno supplente che lo ha affiancato quest'anno. La novità introdotta con decreto ministeriale intende garantire la continuità didattica. Entro il 31 maggio le famiglie potranno formulare la richiesta di conferma del docente alla scuola che a sua volta dovrà inoltrarla ai provveditorati e i docenti potranno esprimere la volontà di mantenere il loro incarico. La conferma dovrà avvenire entro il 31 agosto e sarà prioritaria rispetto a ogni altra supplenza, un'esigenza molto sentita dalle famiglie che scardino l'iter sin qui seguito, sottolinea la direttrice generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Beltrame, che sta lavorando alla circolare per le scuole con le indicazioni operative. Dall'Associazione Nazionale Presidi, il presidente regionale Gervasutti lo ritiene un provvedimento opportuno perché consente di garantire la continuità didattica agli studenti più fragili, tenendo conto degli apprezzamenti ricevuti dalle famiglie. Un assurdo che viola la trasparenza delle procedure di reclutamento garantite dalle graduatorie. Invece, per il segretario regionale della CGIL Scuola, Gargiulo, il provvedimento vale solo per i precari e la vera continuità la si ottiene solo stabilizzandoli, aggiunge. Intanto l'Ufficio Scolastico Regionale segnala un aumento esponenziale degli studenti con disabilità certificate, già oltre 5.300 quest'anno. Negli ultimi 5 anni ha aumentati di oltre il 22%, del 32% quelli con gravi disabilità, in crescita anche i disturbi dell'apprendimento o del comportamento. Mancano di contro gli insegnanti specializzati abilitati, 32 i nuovi posti annunciati dal Ministero, troppo pochi rispetto al fabbisogno, concordano ANP e CGIL. Per sopperire la carenza esponenziale anche l'impegno finanziario della Regione, oltre 1,5 milioni di euro a sostegno delle scuole e quasi altrettanto ai percorsi di istruzione e formazione professionale, puntualizza l'assessore all'istruzione Rosolen, che visti i numeri annuncia di voler rendere i finanziamenti strutturali. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Sempre a proposito di scuola, parliamo ora di un progetto dell'Università di Udine che prevede percorsi formativi post-scolastici a favore di studenti con disabilità cognitiva che, terminate le superiori, hanno difficoltà a proseguire gli studi in ambito universitario. Si chiama ALA, Accademia delle Libere Abilità, ed è un nuovo modello educativo post-diploma che si prefigge di offrire percorsi formativi a persone con disabilità cognitiva che, terminate le scuole superiori, spesso non possono continuare gli studi in ambito universitario al pari dei coetanei. Promosso dall'Ateneo Friulano in collaborazione con Fondazione Radio Magica ETS e sostegno dell'Assessorato Regionale alla Salute. Partito a dicembre 2024, il progetto ha durata annuale. Già avviati o in fase di avvio 3 corsi, storia dell'arte, archeologia, piante, fiori e animali, e 3 laboratori, informatica, lingua dei segni italiana, giornalismo e social skills. Le attività formative sono condotte da un'equipe mista di docenti, esperti di settore e educatori. Ogni dipartimento è rappresentato da uno o più docenti universitari che intervengono in aula e fungono da supervisori dei contenuti didattici, garantendo un collegamento tra ALA e l'ambito disciplinare coinvolto. Le lezioni si svolgono in università, nelle aziende agrarie dell'Ateneo, in alcune sedi di ricerca, come ad esempio Aquileia, per gli scavi di archeologia inclusiva, e nella sede di Radio Magica a Paderno. Il metodo si basa sull'alternanza di moduli teorici e laboratoriali, testi semplificati, supporti visivi per migliorare la comprensione e la partecipazione attiva, uso di strumenti tecnologici e abilitanti, impiego dell'audio e video storytelling per la produzione laboratoriale di contenuti multimediali. Il progetto prevede la creazione di una rete di partner per coprogettare nuovi contenuti formativi e realizzare prodotti educativi utili anche alla divulgazione per scuole, musei e famiglie. Permetterà di analizzare e monitorare l'intero processo educativo in modo da creare un modello replicabile e scalabile che potrà in futuro essere adottato anche da altri atenei o istituzioni educative, facendola, nelle intenzioni dell'università, un punto di riferimento per l'educazione accessibile a livello nazionale. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il ministro della cultura Alessandro Giuli in visita oggi a Villa Corer-Dolfin a Porcia per visionare l'avanzamento dei lavori in corso per l'occasione. Presenti anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il deputato Emanuele Loperfido insieme al sindaco di Porcia Marco Sartini e l'assessore alla cultura e vice sindaco Lorena Blarasing. Proseguono le tribune elettorali organizzate dalla RAI in vista delle elezioni comunali di Pordenone domenica e lunedì prossimi. Oggi il primo degli appuntamenti con le liste in lizza per il Consiglio Comunale. La tribuna andrà in onda alle 13.15 sulla terza rete televisiva della RAI con replica radiofonica alle 23.05 su Radio 1. Manifattura, ambiente, salute, pari opportunità saranno i temi al centro dei lavori della settimana del Consiglio regionale. La settimana si apre con l'insediamento della Commissione per le pari opportunità. Alle 14.30 nella sala gialla di Palazzo di Piazza Oberdan saranno designati infatti il presidente e i vicepresidenti dell'organo di garanzia regionale. Alla medesima ora in aula consigliare la seconda commissione si riunirà per le audizioni dei portatori di interesse sul comparto manifatturiero regionale alla presenza dell'assessore alle attività produttive e turismo. La parità di genere è uno degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, ma come si costruiscono le pari opportunità? Se ne parlerà nell'incontro Costruire le pari opportunità. Interverranno Valeria Martin, psicologa e psicoterapeuta, e Daniela Dose, autrice di Matilda e la canoa. Il legame tra la parità di genere e il ruolo degli stereotipi sarà poi approfondito da Maria De Stefano, già presidente di Voce Donna. Infine Ilaria Rovede ed Enrico Benetti dell'Istrice, associazioni a cui possono rivolgersi gli uomini maltrattanti, parleranno dei percorsi di cambiamento con l'autore di violenza. Alle 18 nella sala Teresina De Gan della Biblioteca Civica di Pordenone. Un orientamento per iniziare il processo nel mondo del lavoro in condizioni di legalità e sicurezza. E questo è lo scopo dell'iniziativa itinerante dal titolo Il lavoro viaggia con noi, promosso dalla Fondazione Consulenti del Lavoro, che è partito proprio oggi da Gorizia a bordo di un track. Cosa scrivere sul proprio curriculum? Come presentarsi ad un colloquio? Cosa vogliono le aziende? La ricerca di un posto di lavoro comincia da qui e il tour della Fondazione Consulenti del Lavoro parte da Gorizia, prima delle 24 tappe italiane. Studenti di quarta e quinta superiore coinvolti con incontri su competenze, tipologie di contratti e soprattutto colloqui con orientatori per una consulenza sul percorso professionale più adatto a ciascuno. Credo che sia una bella esperienza questa, perché appunto mi aiuta a capire cosa vorrò fare dopo il mio percorso di studi. Abbiamo appena partecipato a tutto un discorso su come vedere i nostri punti forti, i nostri punti deboli per la stesura del curriculum, e sinceramente credo che sia stato anche abbastanza importante per saperlo fare in un possibile futuro. Oltre a questo, anche la possibilità di individuare le opportunità di lavoro disponibili sul territorio. Vincenzo Silvestri è il presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro. Cominciare sin dalla scuola a far comprendere ai ragazzi come si deve cercare il lavoro e che cosa significa cercare il lavoro diventa uno elemento fondamentale per poi dopo, quando cresceranno, poter fare delle scelte consapevoli e orientare peraltro le aziende verso quei profili che necessitano e che oggi con tanta difficoltà non riescono a trovare. È il secondo di una serie di eventi finalizzati a divulgare tra i giovani e le aziende temi come la legalità, il lavoro in sicurezza e la parità di genere all'interno del programma Go 2025 Capitale della Cultura. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E uno sguardo al tempo, cielo variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 9 gradi, a Udine 9 gradi e mezzo, a Gorizia e Pordenone 8 gradi, a Tolmezzo 7 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 5 gradi, a Tarvisio 4 e mezzo, a Sappada 2 gradi e mezzo, a Piancavallo 0 gradi, sul Monte Zoncolan meno 1 grado e mezzo, sul Monte Lussari meno 2, a Grado 9 gradi, a Lignano 8 gradi e mezzo. E queste le previsioni dell'ARPA per il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile, le temperature saranno di oltre 5 gradi inferiori alla norma del periodo. Domani cielo poco nuvoloso su pianura e costa, sulla zona montana cielo variabile con bassa possibilità di qualche locale rovescio sparso nel pomeriggio, specie sulle prealpi giulie, con quota neve a 1000-1200 metri. Non sono escluse locali gelate notturne sulla pianura, specie orientale, venti deboli di brezza. Fincantieri ha firmato un accordo del valore non precisato ma definito molto importante con Carnival Corporation per la progettazione e la costruzione di due nuove navi da crociera destinate ad Aida Cruises, compagnia leader nel mercato crocieristico di lingua tedesca. Le due navi, le prime per Aida Cruises, saranno consegnate rispettivamente all'inizio del 2030 e alla fine del 2031. Ogni unità sarà dotata di circa 2100 cabine passeggeri ed equipaggiata con motori multicarburante, in grado di operare a GNL, ossia gas naturale liquefatto, biodiesel e carburanti sostenibili di nuova generazione. Le nuove unità, ha spiegato Pierroberto Folgero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, incorporeranno le tecnologie più avanzate in termini di sostenibilità ed efficienza, rafforzando ulteriormente il ruolo di Fincantieri e di Carnival Corporation come leader nell'innovazione del comparto crocieristico. Le donne diplomate sono più numerose degli uomini, così come le laureate, poi però nel mondo del lavoro guadagnano meno. La cura di casa, figli, genitori anziani ricade prevalentemente su di loro e quindi lavorano meno e difficilmente riescono a fare carriera. Allora come si può cercare di ridurre questo divario di genere? Ne abbiamo parlato questa mattina nella rubrica Buongiorno Regione, nel nostro programma TV del mattino. In Friuli Venezia Giulia le lavoratrici del settore privato guadagnano ben 9.500 euro all'anno in meno degli uomini, dati INPS. Secondo la Fondazione Nord-Est, se si colmasse il divario salariale, ogni famiglia avrebbe a disposizione 7.500 euro in più e il prodotto interno lordo della nostra regione aumenterebbe di quasi 7 miliardi di euro. Come si può ridurre allora questo divario di genere? Roberta Nunin, professoressa di diritto del lavoro al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Trieste. Penso che ci voglia un mix di interventi, no, a vari livelli. Da un lato certamente è importante il legislatore, quindi gli interventi contro le discriminazioni salariali. Anche di recente con la legge 162 del 2021 si sono adottate alcune misure in questo senso e ancora di più lo si dovrà fare dando attuazione nel nostro Paese a delle direttive europee sulla trasparenza. Ma oltre a questo ci vuole un impegno certamente puntuale ad opera della contrattazione collettiva, quindi del dialogo tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali. Per decenni le donne italiane, parliamo della fine dell'Ottocento, ma certamente anche fino al periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, vedersi quasi considerate, laddove lavoratrici, una sorta di salario aggiuntivo per la famiglia in cui chi contava era il capofamiglia. Questo chiaramente nel tempo si è sedimentato e anche all'interno della contrattazione ci sono queste dinamiche che vanno corrette. Infine c'è questo nuovo strumento che stiamo iniziando a misurare nei fatti della certificazione della qualità di genere delle imprese, introdotto proprio nel 2021 come strumento volontario, che prevede delle premialità legate alla circostanza che le imprese adottino delle politiche anche sulla parità retributiva. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un importante provvedimento in favore degli appartenenti alle forze di polizia che raccoglie alcune delle storiche battaglie del SAP, tutela legale, bodycam e inasprimento delle sanzioni per chi usa violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Così il sindacato autonomo di polizia con il segretario regionale Lorenzo Tamaro commenta il decreto sicurezza. Fra i punti sottolineati la tutela legale, per la quale oggi sono previsti sino a 5.000 euro di anticipo per spese legali e peritali, che passerà a 10.000 euro per ogni fase del procedimento penale, e sanzioni più severe per chi usa violenza e resistenza nei confronti di un pubblico ufficiale e una aggravante per chi causa lesioni gravi. Tra le norme presenti nel decreto anche la possibilità di porto di un'arma diversa da quella in dotazione. Presentato poco fa all'Area Science Park di Trieste, il nuovo laboratorio di spettroscopia laser a generazione di frequenza somma che servirà per lo studio dei materiali che mimano la natura. Sintetizzare e caratterizzare materiali che imitino alcune molecole complesse presenti in natura, come ad esempio gli enzimi. Questo, riassunto dalla responsabile Eric Vesselli, docente di fisica sperimentale della materia all'Università di Trieste, è il lavoro che si compie nel laboratorio di spettroscopia laser a generazione di frequenza somma SFG Visp Lab, parte del Dipartimento di Fisica dell'Ateneo Triestino, insediato nel campus di Basovizza di Area Science Park. Un istituto nato nel 2013 e che in questi anni si è affermato come un'eccellenza nel panorama scientifico locale e internazionale. Il laboratorio, spiega Vesselli, impiega con modalità innovative la spettroscopia ottica non lineare con sorgenti laser per indagare le proprietà fondamentali delle superfici della materia dove avvengono fenomeni fisici e chimici importantissimi. Per sviluppare ulteriormente il laboratorio, il team ha di recente costruito uno strumento, un elettrospray molecolare, che permette di assemblare nuovi materiali a due dimensioni, replicando artificialmente le caratteristiche dei sistemi biochimici presenti in natura. Impiegando questo approccio innovativo, continua Vesselli, siamo riusciti a creare un materiale basato sul grafene, che imita le caratteristiche della vitamina B12, un risultato di grande potenziale applicativo. La ricerca su questi materiali è particolarmente importante, conclude il responsabile del laboratorio, perché possono essere utilizzati in contesti come la sintesi di vettori energetici, il settore del fotovoltaico o i sistemi di accumulo di energia, tutti settori oggi altamente strategici. Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora lo sport. Nel basket, tutte e tre vittoriose le squadre regionali. In A1 Trieste si impone alla grande su Napoli, facendo un altro decisivo passo avanti verso i playoff scudetto. Quasi troppo facile, Trieste vince ancora in casa, sesta vittoria di fila tra le mura amiche contro Napoli, che in settimana aveva battuto l'Olimpia Milano. I biancorossi ne segnano 109, record dal 2018, tirando ben oltre il 50% da tre e permettendosi il lusso di reinserire Colby Ross senza subire alcun contraccolpo. E non c'è nessun contraccolpo psicologico alla notizia della settimana dell'addio di coach Christian a fine stagione, con tanto di viaggio lampo negli Stati Uniti, che la società non commenta. L'inizio è sonnacchioso, rientra in campo Colby Ross dopo due mesi di stop, poi si sveglia Denzel Valentine, il fenomeno del Michigan mette due triple di fila per il più 10, 32-22, Napoli prova a reggere l'urto con la coppia di lunghi Totè Zubcic, ma non può durare, il vantaggio cresce in un secondo quarto quasi perfetto, Yutof e Brown lo fissano a quota 20, nella ripresa Trieste gioca leggera di testa e fa vedere un basket praticamente perfetto, secondo show di Valentine quando gli avversari pensano di avere una chance di rimonta, e partita in ghiaccio, l'americano da 8 metri in contropiede fa 64-44, Brown sigla al più 23 su un'azione manifesto del basket di Christian, innescata come al solito da Ruzier. L'ultimo quarto è per le statistiche, per lo spettacolo, con Valentine ancora protagonista, sua la tripla dal logo di centrocampo in una sorta di delirio di onnipotenza. Finisce 109-82 per la guardia, 24 punti con 6 su 9 da 3, molto bene anche McDermott. Trieste quinto in classifica pari merito con Milano e incrementa il vantaggio sulle inseguitrici, più 4 sulla coppia Tortona-Venezia, prossimo avversario. Medesimo il divario tra biancorossi e la vetta. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. In A2 passo avanti dell'APU Udine verso la promozione diretta dopo la vittoria al Cardio Palma a 100. Cividale vince a Bologna 86-79 e si consolida in zona playoff. E adesso manca soltanto un passettino. Pur soffrendo forse più del dovuto, Udine vince anche a 100 e si presenta allo scontro diretto di domenica del Carnera con 4 punti di vantaggio su Rimini. Una vittoria e sarà Serie A, ma non sarà l'unico match ball a disposizione per i ragazzi di Vertemati, che nel primo tempo soffrono l'intensità degli emiliani e la loro difesa, trovandosi sotto 20-13 dovendo appoggiarsi al miglior Hiki per rientrare. Capitana Libegovic dalla carica con l'unica tripla della serata, ma 100 non molla mai, trascinata da un superlativo Davis. Nel quarto conclusivo si arriva punto a punto, Hiki prova a scrollare di dosso la paura dei tanti friulani al seguito con 4 punti di fila, ma ancora Davis e Divo rimettono tutto in discussione negli ultimi possessi, con Libegovic fuori per falli e Xavier Johnson a decidere, suoi 4 punti che indirizzano la partita, chiusa chirurgicamente da Caroti dalla lunetta, anche se Davis sbaglia a fil di sirena il tiro del pari 72-69 nonostante il 20% da tre punti. A Bologna impresa invece di Cividale, che può valere i playoff sul campo più difficile della categoria, partita di spessore degli uomini di Pillastrini trascinati da Mastellari e Redivo. Dopo un ottimo primo tempo le Aquile sprofondano nel terzo periodo e sembrano cadere, 31 punti concessi con la Fortitudo che va più 9, ma come sempre Cividale non si scompone, con pazienza e difesa ritrova il bandolo della matassa in 3 minuti Lembi impatta. L'ottimo Berti comanda dietro e Miani e soprattutto Redivo mettono i punti esclamativi. L'argentino con una bomba pazzesca alla Steph Curry, palleggio incrociato e tempo di rilascio del pallone da altra categoria. Il canestro della staffa lo sigla però Capitan Rota in palleggio resto e tiro. Finale 86-79, Ducali nuovamente al quarto posto. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Alla presenza di Claudia Giordani, vicepresidente del CONI, e di Giorgio Brandolin, presidente del Comitato regionale, in programma la cerimonia di consegna delle benemerenze del CONI. Nel corso della cerimonia, che sarà scandita dalla voce internazionale di Stefano Chainer, saranno consegnati complessivamente 110 riconoscimenti, di cui 24 stelle al merito sportivo, 4 palme al merito tecnico e 82 medaglie al valore atletico. Appuntamento nel nuovo teatro comunale di Gradisca, oggi alle 18. E si apre oggi a Udine la scuola avanzata sulla turbolenza, organizzata in collaborazione con Euromec e European Mechanics Society, con l'obiettivo di avvicinare due comunità scientifiche che finora hanno lavorato separatamente, creando nuove connessioni tra teoria, esperimenti e simulazioni, chi studia la turbolenza sviluppata e chi si occupa della sua formazione. Una settimana di altissimo livello dedicata a uno dei fenomeni più complessi e affascinanti della fisica. In presenza a Udine, collegati online tramite piattaforma, partecipanti da tutta Europa. Al Palazzo del Torso, sede del Centro Internazionale di Scienze Meccaniche CISM. Al segretario generale del CISM, Antonio De Simone, abbiamo chiesto che cosa si intende per turbolenza e quale sia l'obiettivo della scuola avanzata. La turbolenza è una spettinatura del flusso, un'instabilità. Le instabilità sono dei fenomeni nei quali i sistemi materiali rispondono in modo non proporzionale alle cause che li sollecitano. L'esempio classico è la bandiera, una bandiera che sbatte. Anche se viene colpita da un vento di velocità costante, sbatte. Quindi c'è una forzante costante, indipendente dal tempo, e a questa forzante c'è una risposta invece agitata, che dipende dal tempo, che sbatte. E quindi la turbolenza è uno dei fenomeni di stabilità più importanti che ci sono in fisica. Ha un posto mitico perché viene studiata dagli ingegneri per fare volare gli aerei o per fare andare le automobili di Formula 1, insomma. Domare la turbolenza è un'arte per chi vuole vincere un campionato mondiale di Formula 1. Contemporaneamente è un mistero per i fisici ed è un mistero per i matematici. C'è un premio di $1 milione, perché capire alcuni aspetti matematici delle equazioni che poi producono turbolenza è un problema matematico aperto, uno dei 6 problemi del millennio, e chi troverà la risposta a questa domanda matematica vincerà €1 milione. Quindi qual è l'obiettivo di questa scuola avanzata sulla turbolenza? L'obiettivo di questa scuola è più sul fronte della fisica, di trovare delle chiavi per descrivere alcuni fenomeni che comprendiamo solo in parte, che il fatto che l'energia viene trasferita a scale sempre più piccole e non è possibile quindi fare una simulazione di un problema fluido dove viene coinvolta la turbolenza e poi non porti a dover risolvere le scale sempre più piccole, sempre più piccole, sempre più piccole. Quindi servono degli strumenti concettuali per gestire questa cascata di energia verso le scale più basse. Gabriele Lavia ritorna a Udine con il capolavoro di Eugene O'Neill, vincitore del premio Pulitzer nel 1957, scritto tra il 1941 e il 1942, Lungo viaggio verso la notte, questo è il titolo, è considerato il testo più alto dello scrittore americano, che pone al centro le dolorose vicende di una famiglia disfunzionale tra conflitti e segreti dolorosi, un'altra grande prova attoriale e registica di uno dei massimi artisti della scena contemporanea che, con Federica Di Martino, compagna di vita e sulle scene, ci conduce magistralmente nel dramma più autobiografico di Eugene O'Neill, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, oggi e domani alle 20.30, mercoledì alle 19.30. Due gli appuntamenti di approfondimento dedicati allo spettacolo, oggi alle 17.30 Peter Brown, direttore della British School Friuli Venezia Giulia, introdurrà all'opera di O'Neill. Domani alla stessa ora incontro con Gabriele Lavi e la compagnia dello spettacolo, a condurre Mario Brandolin, giornalista e critico teatrale. L'ultimo spettacolo è il film di Andrea Morabito, prodotto dalla Lega Antivivisezione, che racconta la storia della più grande liberazione di animali da un circo, viene proiettato al Cinema Nazionale di Trieste, in tutto 4 proiezioni, dalle 16.30 alle 21.45. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Lara Zani e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Federico Comar e di Manuel Montalto. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle ore 15. A tutti l'augurio di una buona settimana. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.